Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Ho ascoltato mercoledì sera l'intervento del presidente della Giunta Barese dell'Associazione Nazionale Magistrati, che commentava l'ennesimo caso di un giudice lumaca che, grazie alla lentezza con cui svolge il proprio lavoro, riesce a far uscire dai carceri i mafiosi. Si tratta del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, Anna De Palo, che in 15 mesi non è riuscita a depositare le motivazioni della sentenza di primo grado. Alla fine, dopo tutte queste parole, nessuno ha colpa e i 21 mafiosi condannati sono allegramente in libertà. Complimenti al magistrato che è intervenuto alla vostra radio, che ovviamente appartiene alla casta dei magistrati. Ma perché ci devono essere delle caste che non hanno mai nessuna colpa di niente? Magari qualche carabiniere, catturando i mafiosi, ha pure rischiato la vita, per poi vedere questi signori che rimettono in libertà i malviventi arrestati. Il presidente della giunta barese ha detto che Anna De Palo, il magistrato incaricato di scrivere la sentenza, aveva delle urgenze. Ma perché? Non far uscire questi 21 mafiosi non era forse un'urgenza? Lettera firmata. L'altro giorno avrei voluto gridare il mio disappunto per quanto successo a Bari, dove 21 mafiosi sono stati scarcerati perché il giudice Anna De Palo, in 15 mesi, non ha trovato il tempo per trascrivere una sentenza. Avrei voluto fare una vignetta stile Vauro con questa didascalia. Protezione civile. Istituita nuova task force di dattilografi inviati in soccorso al Tribunale di Bari. E tutto ciò alla vigilia dell'assegnazione di 12 miliardi per i lavori di ricostruzione. Anche per questo ci sarebbe da chiedersi da cosa scaturisce questo preventivo. Perché ci mettono già l'ansia su come reperire una cifra che è già difficile da scrivere? Perché ci mettono l'ansia con 1000 ricette, ciascuna delle quali al massimo arriva a 400 milioni, che è un centesimo di ciò di cui si avrà bisogno? In quanto tempo dobbiamo raggiungere questa cifra? Tutto subito o in rate decennali? Perché tutto questo senso di colpa per il cittadino medio? Ancora non hanno finito di censire chi avrà diritto alla casa, chi, cosa, dove, quando. Possibile che non si riescano mai a fare le cose con un minimo di calma e programmazione? Capisco le urgenze vitali, restituire dignità e tutto quello che si vuole, ma è capitato, le disgrazie succedono. Ora però è importante trovare subito 12 miliardi con le soluzioni più disparate, dal gratta e vinci alla tassa per i ricchi e poveri, al 5 per mille volontario, all'1% di IRPEF una tantum, o per sempre. Perché invece non si costituisce una zona franca e si aiuta la gente del posto a generare le risorse, certo con l'aiuto anche dello Stato, ma anche con sgravi ed incentivi alla produzione? Facciamo in modo che siano loro a ricostruirsi le case e non aziende con sedi legali di dubbia provenienza. Lo so, magari facendo questi commenti si può passare per qualunquisti, disfattisti e negativisti, eccetera, eccetera, eccetera, ma io mi sento perennemente preso in giro. La notizia del Tribunale di Bari ha avuto pochissimo riscontro sui giornali e solo in piccoli trafiletti di cronaca. Se l'opposizione poi non cavalca nemmeno queste cose, addio. Giancarlo Fano. Ho seguito le varie puntate di Omnibus, Anno Zero e eccetera, dove si denunciavano, oltre ai ritardi nei primi soccorsi, eccetera, anche il pessimo stato degli edifici abruzzesi, l'inagibilità, eccetera. Ho sentito il giornalista Caporale denunciare, criticare e una domanda mi è sorta spontanea. Ma dov'era lui 6 mesi fa? O 5 settimane fa? O 2 anni fa? Le case non erano forse inagibili anche a quel tempo? Dove sono stati lui e Santoro e compagnia bella, che adesso denunciano e gridano all'untore? Perché Santoro 6 mesi fa non ha fatto una puntata su questo tema, che adesso sembra essere diventato la priorità delle priorità? Forse perché non gliene fregava un cavolo a nessuno? O non era da audience? Non lo so. A me tutte queste denunce disperate e indignate fatte dopo mi fanno ridere. Sempre dopo, mai prima. Alessandro. Non entro nel merito della trasmissione Anno Zero, al centro delle recenti furiose polemiche. Tuttavia, ritengo che non ci si possa nascondere sempre dietro la libertà di satira o d'opinione, per poi non rispondere in prima persona quando si oltrepassa il limite, soprattutto se tale libertà è garantita anche dai soldi di chi non la pensa come loro. Adriano. Caro direttore, le accuse indirizzate al signor Vauro, cosiddetto vignettista, non devono essere limitate alle offese di natura politica, ma alle offese contro la comicità e la sottile ironia all'inglese. Grillo, Laguzzanti, Crozza e Vauro sono considerati comici. Ebbene, loro offendono il mio intelletto e il mio concetto di comicità. Appartengo alla razza ebraica, quella a cui appartengono Woody Allen, Charlie Chaplin, Peter Sellers, Mel Brooks, Walter Matthau, Barbara Streisand, i fratelli Marx. Unica eccezione è quel noioso di Moni Ovadia. Vi posso assicurare che i vari Grillo, Guzzanti, Crozza e Vauro mi annoiano almeno come il pallido Festival di Sanremo o l'Anello dei Nibelunghi di Richard Wagner. La loro è una comicità nordcoreana. Sono un'offesa a tutti i bravi, veri comici nel mondo. Se la comicità italiana consiste di tali elementi, oltre i vari filmetti di Natale, vuol dire che la vera sottile ironia non esiste più. Ciò significa che culturalmente siamo alla fine. Boaz Senator, Milano. Mi pare che qualche anno fa, per aver tentato di mostrare in TV una delle vignette satiriche sull'Islam, Calderoli si dimise e gli orfani del Partito Comunista Sovietico si stracciarono le vesti. Per Vauro, invece, tutto bene. Avanti così, Luigi. Seguendo tutti i dibattiti di questi giorni riguardanti i fondi di sostegno per i terremotati, vengono evidenziate varie lacune e tanti modi di raccolta possibili. Ci sarebbe un modo semplice per raccogliere fondi pubblici a costo zero, ottenendo in cambio un importante risparmio da parte degli elargitori, ossia le amministrazioni pubbliche. Da molti anni sostengo che bisognerebbe adeguare la gestione dell'illuminazione pubblica con sistemi logici anche a costo zero. Purtroppo si continuano a sprecare e sperperare ingenti somme. Anche ieri mattina, col cielo coperto e grigio e la pioggia, molte zone della mia città sono rimaste illuminate anche fino alle 9:30-10. Inoltre, con l'orario legale, se non si spostano gli orologi che programmano l'illuminazione pubblica, l'introduzione dell'ora legale non serve a niente. Infatti, si dice che l'ora legale porti un risparmio nazionale soltanto dell'1%. Secondo la tabella standard degli sprechi elettrici pubblici, lo spreco pubblico è stato individuato in 10 watt pro capite al giorno. Qui si tratta soltanto della gestione fuori logica e non dell'illuminazione inutile o smodata. Esempio, una città delle dimensioni di Bologna spreca 3.000 euro al giorno. Dall'alto si dovrebbero obbligare le amministrazioni pubbliche a versare il corrispettivo dello spreco sul conto preposto per un fondo permanente per qualsiasi calamità, fin tanto che non hanno eliminato lo spreco. Siccome è risaputo che occorreranno alcune generazioni per questa iniziativa, sono convinto che si verrebbe a creare una consistente riserva nel deposito preposto. È logico che tutto questo spreco non lo paga il sindaco di tasca propria, ma lo pagano i cittadini, che in genere sono i soli a donare per i disastrati. Mauro, provincia di Modena. Direttore Fabi, quali azioni dovrebbe intraprendere Berlusconi per affrontare il dopo emergenza all'indomani del terremoto in Abruzzo? Vorrei sintetizzare quanto ho recepito dalle discussioni alle quali ho assistito in TV e dopo le letture dei giornali. Identificare le aree terremotate senza lasciare ai comuni il compito di valutare e decidere, bensì a Bertolaso come commissario per la ricostruzione. Deliberare per decreto le nuove norme antisismiche giacenti in Parlamento da troppo tempo. È urgente e da subito l'applicazione di tali norme può salvare vite umane. Installare prefabbricati in legno per gli sfollati che non vogliono abbandonare la loro città. Avviare con urgenza la costruzione di case popolari per chi ha perso tutto e non ha più nulla. Nuove regole per appalti e subappalti. Chi vince un appalto può subappaltare solo una volta e il subappaltatore non può a sua volta subappaltare a qualcun altro. Le società, ma anche gli individui che hanno avuto condanne in primo grado per attività ai danni della pubblica amministrazione, non possono partecipare a gare o, in ogni caso, gestire anche indirettamente risorse della pubblica amministrazione. Avviare un censimento rigoroso di tutti gli edifici, a partire da scuole e ospedali, costruiti in zone sismiche e chiedere azioni correttive ai costruttori. Denunziare per tentata strage coloro che hanno commesso doli criminosi. Fare un decreto che generi automaticamente il sequestro degli edifici abusivi costruiti in aree sismiche. Faccia Berlusconi il passo che tutti si aspettano. Congeli il progetto del ponte, trasferendo alla ricostruzione le risorse che lo Stato vi dovrebbe stanziare. Ok allo snellimento delle procedure per costruire, ma aumento delle pene per chi imbroglia o corrompe. Il procuratore della Repubblica faccia le indagini, colpisca chi deve colpire, ma soprattutto faccia capire alle istituzioni dello Stato, governo, Parlamento, regioni, province e comuni del resto d'Italia che cosa fare prima che avvengano i terremoti e si continuino i morti. Direttore Fabi, è fondamentale che giorno per giorno la stampa faccia il punto, fino a ricostruzione avvenuta e completata, sullo stato di avanzamento dei lavori. È il momento del fare, non dell'annunciare. Domenico, Roma. Non riesco a capacitarmi della previsione di spesa di 12 miliardi fatta da Maroni. Gli sfollati sono 65.000. Ipotizzando famiglie costituite da 3 persone, risultano meno di 22.000 famiglie, e quindi 22.000 case. Quelle non agibili sono un terzo, che arrotondando in eccesso fa 8.000. Costruire un'abitazione, impianti inclusi, costa difficilmente più di 700 euro a metro quadrato, ai quali bisognerebbe aggiungere il costo del terreno, gli oneri di costruzione e l'IVA. In ogni caso, arrotondiamo pure a 1.000 euro a metro quadrato. Ipotizzando di costruire case da ben 100 metri quadri, il costo ad abitazione sarebbe di 100.000 euro. Costruire 8.000 case da 100.000 euro costa 800 milioni di euro, che, anche raddoppiati o triplicati per includere ospedale, scuole, università, tribunale, oratori, chiese, restauri e ristrutturazioni, non raggiungeranno mai nemmeno la metà dei 12 miliardi. Infine, vorrei far presente che 12 miliardi divisi tra le 22.000 famiglie significa dare a ciascuna 545.000 euro, un miliardo di lire. Ben vengano gli aiuti, ben vengano i miliardi, ma personalmente, a parte non capire i calcoli fatti, spero che saranno spesi per insediare attività produttive, perché l'unico modo per far rinascere le città è creare ricchezze, non limitarsi alla carità. Andrea, Cremona. Province o no, il sistema pubblico è al collasso. Un dipendente ogni 8 lavoratori è pubblico. Di questo si deve parlare, questo deve essere risolto. Basta incarichi o compiti duplicati, triplicati, quadruplicati, province, regioni, comuni, quartieri. Ma non dovevano ridurre il numero dei parlamentari per delocalizzare? È giusto che chi ha la maggioranza governi, e in un paese multipartitico come il nostro, è giusto che la responsabilità sia data al partito che ha raggiunto la maggioranza relativa. Cambia la posizione di chi si oppone, che dovrebbe essere un'opposizione attiva, non costruita sul solo denigrare o contestare, ma sul proporre la propria soluzione, di modo che il cittadino veda l'operato del governo, del Parlamento, e ascolti le differenti proposte, in modo da avere un criterio di valutazione per le successive votazioni. Stefano. Sono uno studente di ingegneria gestionale industriale a Udine. Per quanto riguarda la ricostruzione dell'Abruzzo, è fondamentale partire anche dallo stato d'animo delle persone, e in particolare dei bambini. Infatti, se i bambini riprendono a sorridere, probabilmente un soffio di speranza giungerà pure ai genitori. Mi fa tuttavia ridere il gioco puramente mediatico che hanno gli interventi del ministro dell'istruzione Gelmini, che cerca di recuperare un po' di consenso. Ma in quanto studente, non posso dimenticare che già nella seconda retta universitaria gravano sulle spalle della mia famiglia 300 euro in più, e nei prossimi anni aumenteranno ulteriormente, per lo più in questo periodo di crisi e di difficoltà per le famiglie a basso reddito. L'Abruzzo, con le sue case in muratura di sabbia, insegna che la ricostruzione deve coinvolgere non solo se stesso, ma tutta l'Italia, almeno dal punto di vista morale, come insegna il Presidente della Repubblica Napolitano. Tutti dobbiamo fare un esame di coscienza. Allora cominciamo a non gravare sulla scuola pubblica, anche se siamo durante la crisi, perché è da lì che provengono i valori e lo stesso futuro di un paese. Obama docet. Sono convinto che il sistema universitario italiano debba migliorare di parecchio, ma ciò non avverrà mai con Italia ad una ricerca già soffocata dai pochi finanziamenti. Bisogna insistere sul merito e sui controlli. Jacopo. La questione del referendum è veramente assurda. E solo in Italia può succedere una cosa simile. Io come cittadino mi sento profondamente offeso per essere trattato come uno scemo. L'accorpamento del voto referendario nel cosiddetto Election Day Non vi obbliga affatto a votare per il referendum. Se non volessi votare il referendum, semplicemente non lo voterei. Non è la concomitanza con le elezioni europee che mi può far cambiare idea. Mentre invece la separazione delle giornate elettorali per il fatto di essere una o due o tre a breve distanza l'una dall'altra diventa di fatto una sorta di boicottaggio. Qualunque politico con un po' di sale in zucca invece capirebbe che obbligare i cittadini a tornare alle urne una seconda o forse una terza volta là dove si vota per le amministrative è un non senso e significa prendere per i fondelli l'elettore. E questo a prescindere dal costo di una giornata di elezione separata, che comunque esiste e non è indifferente. Quando mai verrà quel giorno in cui potremo avere una classe politica in grado di rendere un servizio alla cittadinanza, invece di occuparsi solo di intrallazzi e di interessi personali e di partito? Alessandro. A prescindere dall'argomento del referendum, qualcuno spieghi a tutti che quando un governo o parlamento, come in questo caso, decide di investire dei soldi per qualcosa, si mette in moto un meccanismo che non può cambiare con le chiacchiere. E io mi chiedo, a proposito dei soldi che sarebbero sprecati, perché non spostare i soldi magari in qualche ospedale mai finito, o piuttosto in qualche strada o qualche autostrada rimasti incompiuti? O i soldi stanziati per finanziare qualche inutile corso regionale? In una società ci sono tanti costi, a volte utili e a volte no. E poi, non credo che cambierebbero i costi. Gli scrutatori e i presidenti vengono pagati a schede, quindi i costi sono uguali. Ippolito. Un'umile constatazione. Qui si parla tanto di referendum da accorpare alle elezioni europee e amministrative. Il tutto per risparmiare una non indifferente quantità di milioni di euro, che potrebbero essere destinati per l'emergenza delle zone terremotate. Anche accorpando varie votazioni, il costo vivo del referendum è sempre significativo. Vedesi schede, urne, presidenti di seggio, scrutatori, eccetera. La giustificazione del voto e del risparmio ci può essere se questo raggiunge il quorum. Ma se questo traguardo non venisse raggiunto, e la storia dei referendum è piena di fallimenti, non credete che siano sempre soldi buttati via al di là dell'accorpamento o meno? Quante volte abbiamo sentito citare la quantità enorme di soldi che sono stati buttati al vento per quorum non raggiunti? Non sarebbe meglio soprassedere per il momento a questo tipo di consultazione per accorparla poi ad altre future? Michelangelo, Livorno. Erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.